un'estate degna di tale nome, un'estate dove abbiamo e avete la possibilità di leggere Uso il presente, perché è ancora in corso una manciata di giorni per l'estate 2024. Il Voltiamo Pagina inizia, è la prima puntata di stagione 2024-2025. Come ho già detto, la formazione è al gran completo, voi ci siete e con il 333-180-9494 la possibilità di arricchire la vostra biblioteca. Intanto, buongiorno Silvia, bentornata! Buongiorno Willy, bentrovato. Anche se ci siamo già sentiti in occasione di un last minute al lunedì, adesso in presenza con la rubrica letteraria avremo sia playlist musicale. Ah, anch'io ho portato un brano, colonna sonora per il libro che presenterò, eh? Questo te lo anticipo. Va così. Va bene, cerchiamo di farci stare tutto. Tutto, tutto. E do il buongiorno anche al nostro notaio Stefano, che come la mano degli Adams porta il saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori, mattiniere, mattinieri dei 103.1. Allora, iniziamo. Sicuramente hai letto anche qualcosa per te, come ho fatto io durante le vacanze, che il libro del Voltiamo Pagina. Se devo essere sincera, ho letto solo per me. Ah, ok, è bello, bene, bene, questo mi rassicura, perché pensavo, no, per il Voltiamo Pagina ho preparato, mi sono messa avanti. No, no, ho letto. E hai un libro che ti ha colpito particolarmente, che hai letto per te? Quello che ti ho portato oggi. Ah, l'hai portato anche qui. Eccolo. Quindi hai unito l'utile al dilettevole in questo caso, sì, si può dire. Ho unito l'utile al dilettevole, però chiaramente è un po' un extra, diciamo, una sorpresa, nel senso che è un libro che ho trovato in Inghilterra, a Londra, che non è ancora uscito in Italia e non so se mai uscirà, ma che ci tenevo moltissimo a parlarne, perché mi ha veramente colpito. Quindi metti una sorpresa in palio. Metto il libro a sorpresa. Sì, no, sì, metto il libro a sorpresa, perché chiaramente non metto in palio un libro scritto in inglese, insomma. Che oltretutto magari ci tieni ad avere, visto che non sai, soprattutto quello. Che oltretutto ci tengo ad avere, sì. Dunque, il libro l'ho comperato, il libro si intitola 1967, How I Got There and Why I Never Left, cioè come ci sono arrivato al 1967 e perché non l'ho mai abbandonato, perché non sono mai partito, ed è scritto da Robin Hitchcock. Oi. Ora, io l'ho comperato chiaramente solo e semplicemente perché, come tutti oramai sanno, sono una grande fan di Robin Hitchcock. Non mi aspettavo niente di speciale, insomma, aspettavo un pochino il solito libro dove un artista parla delle sue origini, così, racconta degli aneddoti, eccetera. Invece sono rimasta molto colpita perché mi sono trovata di fronte a un, non lo chiamo romanzo, un memoir, scritto molto bene, dove Hitchcock racconta in qualche modo un momento, un anno importante della sua, a cavallo tra l'infanzia e l'adolescenza, diciamo. E lo fa, prima di tutto facendo leva sulle canzoni, sulle musiche che ha ascoltato in quel periodo e che l'hanno convinto a fare musica, a diventare un cantautore, ma soprattutto raccontandoci un'Inghilterra molto, molto particolare, dandoci proprio uno spaccato di vita e di quegli anni 1966-67, quindi prima del 68, visti da un ragazzino che era troppo piccolo per partecipare alla Swing in London, diciamo, e da un ceto sociale molto particolare, perché io non lo sapevo. Pensavo, io non sapevo niente di Robin Hitchcock a parte le sue canzoni, quindi io pensavo che mi sarei trovata di fronte alla solita storia del cantante, del ragazzo che viene da una famiglia piccolo borghese, operaia, così, e che poco alla volta sente le canzoni e decide di cantare, eccetera eccetera. Per inciso, apro una parentesi, io ho letto anche il memoir di Gianni Morandi, quindi per cui insomma per cui sono, dire, ci poniamo limiti, appunto, non ci poniamo limiti, ma ho anche una certa esperienza anche in questo tipo di narrazione. Beh, quanto ha influito però il tuo essere, giustamente lo sono anch'io, ammiratore autrice delle musiche e dei testi di Robin Hitchcock nell'aspetto letterario, oppure hai detto caspita, è anche bravo a scrivere. Ho detto caspita, è anche bravo a scrivere. Perché adesso ti dico, qui siamo, ti dicevo, una particolare classe sociale, perché io non lo sapevo, ma il Robin Hitchcock viene dall'alta borghesia. Vedi che anche tu fai. Non lo sapevo. Questo è molto interessante. E lui a questo 1967 premette un prologo di due capitoli che parlano del 66. Perché è importante il 66? Perché è l'anno in cui i suoi genitori lo mandano in collegio. Perché come tutti i bravi ragazzi che vengono da una famiglia benestante, deve completare la sua istruzione in un college, quindi a 60 km da casa, lontano dalla mamma, dal babbo, dalla sorellina. Improvvisamente questo bambino si ritrova, perché quando lo mettono non ha ancora 13 anni, ha 12 anni e mezzo, si ritrova in questo ambiente completamente maschile, dove chiaramente lui, che è anche un po' grassottello, ha dei problemi perché è un ragazzo che non lega con gli altri, che è sempre stato da solo, al massimo con la sorella. Introverso, dirà che più tardi gli hanno scoperto che era al limite dell'Asperger. Addirittura. Lui comunque, ricordo, anno di nascita 1953. Sì, ecco. Esattamente, quindi stiamo parlando del 66 inizialmente. E lui si ritrova a poter essere vittima di bulli e bulletti. Ah, lì poi figurati, in un ambiente di alta borghesia rampolli. Però che cosa fa? Capisce una cosa, lui dice, ho capito che la prima volta che gli chiedono come si chiama, si impappina così e fa ridere tutti. Cioè, allora ho capito una cosa, che se li facevo ridere mi lasciavano in pace, mi prendevano per il clown e quindi mi lasciavano... Si limitavano semplicemente a deridere. Magari pensavano che ero un po' stupido, però mi lasciavano in pace. E questo poi diventerà in qualche modo anche un suo marchio di fabbrica, perché se vai ai suoi concerti lui spesso e volentieri dice delle cose senza senso, fa ridere la gente, insomma, ha un po' questo senso. Intrattiene anche al di fuori della musica. Infatti, ma intrattiene in questa maniera molto nonsense, molto particolare. Tra l'altro in questo episodio, per esempio, lui arriva in questo college al quale è stato preparato duramente dalla famiglia, perché ha dovuto sostenere anche un esame prima per essere ammesso di greco e di latino e lui non ha mai studiato nelle scuole pubbliche, per carità. È stato, lui e la sorella sono stati educati a scuola, a casa, da dei precettori privati. Quindi lui aveva il precettore di greco e di latino e quando arriva lì fanno l'appello il primo giorno e chiaramente a lui verrebbe spontaneo dire presente. Invece in questo posto quando ti chiamano, dicono il tuo nome, tu devi dire sum. Ah, certo. In latino. Io sono. E lui chiaramente si impappina e lì viene questo sketch, diciamo. È molto interessante vedere come lui ti racconta questo ambiente. Perché è in questo ambiente che lui poi ha sentito per la prima volta la canzone che gli ha cambiato l'esistenza. Qual è? Quella che sentiamo tra un attimo. Ok, allora attendo. In questo ambiente dove lui è arrivato proprio alla brutta. Ecco, faccio un passo indietro. La madre di Robin Hitchcock è la prima donna che si è laureata in storia a Cambridge. Ah. Tanto per dirne una. Il padre è un ingegnere. La madre non ha mai utilizzato la sua laurea perché tanto dopo poco tempo ha avuto una grossa eredità che poi ha permesso, mentre il figlio era in collegio, anche al padre di licenziarsi e di dedicarsi esclusivamente al suo hobby, cioè la pittura. Quindi lui, quando è tornato a casa, per le prime 6 settimane non poteva, per regolamento non si potevano assolutamente né ricevere visite, quando lui torna a casa per Pasqua vede che è tutto cambiato anche a casa. Appunto, il padre è diventato un pittore a tempo pieno in collegio una delle prime cose che quando arriva in collegio hanno un giradischi e che i ragazzi sono liberi di ascoltare nelle ore libere, e una delle prime cose che lui ascolta è una canzone dei Beatles che dice i Beatles sono arrivati anche qua. Non ne sa molto lui dei Beatles, ma sa che esistono ed è molto contento di sentire che sono anche lì. Però dopo, qualche giorno dopo, gli arriva l'eco di un'altra canzone molto diversa. Lui dice una voce un po' non proprio raffinata, che sta parlando di me, perché dice come si sta a essere così lontano da casa, no direction home, senza avere la possibilità di tornare a casa. How does it feel to be on your own? Come si fa a essere da solo? E questa canzone dice, io penso subito, l'hanno scritta per me, è fatta per me, ma soprattutto lui dice, io non è che ascoltavo canzoni, a casa io facevo dei modellini, era uno di quei bambini che facevano i modellini, soprattutto modellini di treni e di tram. Ok. E giocavo con i dinosaurini animaletti così, preistorici. Cioè, le canzoni non c'erano tanto a casa mia. Cioè, capisco che in una canzone ti puoi ritrovare, perché quando questo qui con questa voce gracchiante, che io non so chi sia, comincia a dire come si sta a stare, come stai a stare da solo, come fai tu che eri così felice, guardavi tutti dall'alto in basso, adesso sei lì da solo, come stai? Cioè, io dico cavolo, questo ha capito, sta parlando di me, questo sta parlando di me, questo ha capito chi sono e come sto senza mai conoscermi. Ecco il potere di una canzone, vogliamo farla sentire? Io direi di non presentarla neanche, perché è talmente bella e talmente certo. Famosa che e immaginati questo bambino di 13 anni che la sente da solo e ha questa reazione fortissima. You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Beh, come che la conosciamo. Allora, detto ciò, ringraziamo Silvia Albertazzi, la nostra prop, che oltre ad aver portato alcune frasi in inglese, ha dato la possibilità anche a me di cantarla. Tu hai portato alcune parti del testo riconoscibili nel sì. Brano Like a Rolling Stones del grande Bob Dylan. non nascondo che intanto così distratto alla finestra me la canticchiavo con le parole esatte, non con il gramlo solito di chi non sa l'inglese, hai capito? Perché ogni tanto ce lo inventiamo, anzi spesso. Io ho avuto un'importante mancanza in questi giorni, ho ricevuto il ben ritrovato e bentornato da ascoltatrici e ascoltatori, tra un passaggio e l'altro ho purtroppo dimenticato di citare un ascoltatore molto presente che è il nostro Luigi, quindi scusami Luigi, ne approfitto dedicandoti questa canzone anche a te di Bob Dylan, Like a Rolling Stones, portata dalla nostra prof Silvia. E ben ritrovato Luigi, sei all'ascolto del Voltiamo Pagina, beh, un caloroso abbraccio, una buona stagione anche a te, radiofonica e non solo. Buongiorno Sabina che scrive: sono in partenza per Siena e purtroppo non so a che ora torno stasera. Purtroppo non sono riuscita a ritirare il libro sulle donne prigioniere mandate in Louisiana a procreare. Come posso fare? Semplice, il libro ti sta aspettando in libreria Ubik in Viernerio 27 a Bologna. Puoi andare domani, puoi andare nei prossimi giorni, è lì che ti attende. Exchanging all precious gifts, but you better take a diamond ring, you better pawn it, babe. Dino, mi sono già scusato con te, il nostro campione di suggerimenti per quanto riguarda la musica italiana del venerdì. Buongiorno a te, Dino. Dice: nessun problema per il libro, comunque lo avrei, ho messo in palio il saggio di Luigi Busi, non è ancora arrivato e beh, sarà mia cura tenerti informato, parola mia, lo avrai e come. Luigi è molto contento dei saluti e scrive, parafrasando un vecchio film francese, finalmente mercoledì. Grande. Grande, sì. Like a complete unknown, like a rolling stone. Sfuma al termine questo inizio di playlist. Andiamo avanti con il nostro libro perché siamo solo al prologo. È vero, beh, però già dal prologo vuol dire che no, ma io ti lascio, intanto siamo fino alle 9, per cui abbiamo modo di ricordare anche l'appuntamento di domani, dove sei. Certo, dopo. Dopo. Niente, allora, il prologo è 66, è questo ragazzino che arriva al college e si trova in questo ambiente così estraneo. Poi chiaramente l'anno dopo è già fra i più grandi, quindi si è già ben inserito, diciamo, c'ha i suoi amici, i quali hanno tutti degli strani nomi, che chiaramente suppongo li abbia inventati. Sì, certo, immagino. Però dice che corrispondono tutti a persone realmente esistenti, molti dei quali lui frequenta ancora, e soprattutto comincia a raccontarci quello che è la vita in questo college e gli insegnanti e gli inservienti, che sono tutti personaggi che sembrano venuti fuori da un libro di Dickens. Sono divertentissimi, francamente, anche se lui li mette in un capitolo che ha come titolo All the Lonely People, no? Prendendo un verso da Eleanor Rigby, perché sono tutti personaggi un po' soli, un po' tristi, però da come li racconta lui fanno veramente ridere. E lui dice: questo 1967 è l'anno appunto che mi ha cambiato la vita. A un certo punto lo introduce proprio con queste parole. Questo introduce la parte relativa al 67. Questo è quello che mi è capitato sulla soglia tra infanzia e adolescente. Mi ha lasciato con l'anima di un lattante e la mente di un uomo di mezza età. E questa è la sua descrizione di se stesso. Dunque, tra le tante cose che gli capitano, c'è appunto questo, comincia anche lui a scegliere i dischi per questo giradischi e, essendo già più grandino, viene preso in simpatia da dei ragazzi più grandi ancora che lo invitano ad andare a qualche riunione e a qualche festicciola al di fuori del college. In una di queste riunioni appare un personaggio molto strano, un ragazzo più grande, diciamo sui 18 anni, 18, 19, che ha vestito in maniera strana, vestito da guru con un caffetano, in maniera molto ieratica, che fa dei grandi discorsi messianici. Ma chi è George Harrison? No, no, no. Okay. E poi si mette anche a cantare, no, è un tal Brian Eno. Ah, ho capito, ma non finiscono mai le sorprese in questo libro. Che pare essere appunto stato fra i soloni, i grandi, quelli che stavano per andare all'università, diciamo, di questo college, e che però, col quale il povero Hitchcock non lega poi tantissimo, perché non lo guarda neanche, perché è un bambino, per cui è un ragazzino. E poi è noto Brian Eno, almeno così dicono le cronache, di non essere così affabile, ecco. Questo non lo so. Dicono, io non l'ho conosciuto, però non comunque, l'ho avuto modo. Ti dico, questo per dire che sì, ci sono dei personaggi, Brian Eno poi è l'unico personaggio, del mondo musicale che appare in carne e ossa, gli altri semmai appaiono in disco, però c'è il discorso dei dischi, c'è ovviamente il discorso della musica che lui ascolta, il fatto che nel 67 escono tutta una serie di dischi che lo influenzano particolarmente. Esce Waterloo Sunset dei Kinks, esce Whiter Shade of Pale dei Procol Harum, esce Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E di fronte a questo, lui, che quando era arrivato e aveva sentito i Beatles, sì, era contento perché era una musica di casa, però non gli dicevano niente, non dicevano più di tanto. Una volta che comincia a sentire prima Rubber Soul, poi Revolver e poi finalmente Sgt. Pepper, arriva a dire queste parole. I Beatles è come se fossero preservati dentro un'ambra di 60 anni d'età, ma risplendono ancora più luminosi. Significano per il pensionato dai capelli bianchi che sono adesso tanto quanto significavano per il ragazzo di 10 anni cresciuto al 70%. Per me significano così, e per milioni di altre persone di cui non so nulla, eccetto il fatto che presto non ci saranno più. Questo è stata una premonizione. Tra l'altro, la carriera dei Beatles è stata molto breve, per cui ha avuto modo di goderseli, di arrivare a una comprensione sia musicale che emotiva molto importante, l'ha saputa trasmettere in poesia, sì, con queste parole molto belle. Molto belle, ma anche per uno che più o meno che è suo coetaneo, chiaramente quando dice significano tanto per me e anche per tante altre persone che non conosco ma che presto non ci saranno più, insomma, no, non è piacevolissimo. Non ti porta bene, però se vogliamo la poesia non manca. Comunque, ecco, la canzone con la L e la C maiuscola che proprio lo convince ad arrivare I Will Become a Songwriter, dice dopo aver sentito questa canzone, è Visions of Johanna di Bob Dylan. Lui dice: Like a Rolling Stone è una canzone che mi ha agganciato, Desolation Row mi attira, ma Visions of Johanna è più sottile, più avvolgente, diventa me. Voglio sciogliere la barriera tra me e quella canzone, anche se non so ancora dove mi porterà. E adesso vediamo dove l'ha portato. It's my favorite song, that's why I started writing songs. Like the night to play tricks when you're trying to be so quiet. We sit here stranded, though we're all doing our best to deny it. And Louise holds a hand full of rain, tempting you to defy it. lights flicker from the opposite loft. In this room, the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover, so entwined. And these visions of Johanna that conquer my mind. Empty lot where the ladies play blind man's bluff with the keychain, and the all-night girls, they whisper of escapades out on the D train. We keep hearing the night watchman click his flashlight on and off and ask himself if it's him or them that's really insane. Louise, she's all right, she's just near. She's delicate and seems like the mirror. Il primo disco di Robin Hitchcock esce nel 1981. Questa è una raccolta di interpretazioni, invece, sempre dallo stesso Robin Hitchcock, interpretazioni chiaramente ispirate, portate in originale invece dal menestrello Bob Dylan, ed è uscito nel 2002. Ecco, adesso la data in cui è uscito non lo so. Ho pensato io a però, fare ricerca. Sì, sono tutte cover di Dylan e mi ricordo che invece noi vedemmo un bellissimo concerto dedicato esclusivamente a Bob Dylan in occasione dell'ottantesimo compleanno di Bob Dylan. Robin fece questo concerto a Cusercoli. Ah. Questo paese dimenticato da Dio. No, però in Romagna, una zona molto particolare nell'Appennino tosco-romagnolo. Sì, infatti, e lui fece appunto un bellissimo concerto sul sagrato della chiesa di Cusercoli, tutto di canzoni di Dylan. E lui tra Pratolino, Cusercoli, adesso lo aspettiamo a Monghidoro. No, io guarda che c'è stato un periodo che Robin veniva tutte le estati all'inizio degli anni 2000, tra il 2006 e il 2010-12. E quindi noi l'abbiamo vista a Modigliana, Brisighella, a Cusercoli, in tutti questi paesi. Veniva sempre in Romagna tutti gli anni con il ciclo di strade blu, si chiamava, sì, sì. Strade blu. Poi dopo ha smesso. Beh, c'è anche Castel del Rio più vicino a noi, insomma ne abbiamo. Ah, anche Grizzana. Ok, questo è ancora più Grizzana vicino Visconti, a noi. È andato anche lì l'ho visto. Anche gusto nel scegliere i posti per i concerti. Intanto io do un consiglio che arriva al 333-180-9494, una proiezione che sarà per la giornata di domani, giovedì 5 settembre alle ore 21.30 presso la Corte Comunale in via Emilia 92. Flora di Martina De Polo. Per quanto riguarda questo consiglio che ci è arrivato, io ringrazio tantissimo, vediamo un po' se è firmato, no, non pare sia firmato, però insomma noi abbiamo voluto segnalare anche questo appuntamento, ne avremo uno ulteriore legato poi a Radio Città Fujiko, di cui con Silvia nella seconda parte parleremo. Allora, non possiamo mettere in palio, e me ne rendo conto questo lavoro, me ne rendo conto, te lo proibisco io, guarda, se per caso hai un colpo di becchisia e dici no, non ce l'ho. E intanto allora però ho già impacchettato per voi con una bellissima confezione verde. Sì, guarda, è un librino di uno dei maggiori scrittori americani attuali, che a me piace molto, quindi è un bel libro, ecco. Ok, e abbiamo il momento del quiz allora. Sì, il quiz, è un quiz abbastanza stupido. Comunque, Robin Hitchcock ovviamente ha lo stesso cognome di un famoso regista, anche se non sono parenti, Alfred Hitchcock. Io vorrei che mi indicaste i nomi di tre attori attrici che sono state protagoniste di film di Hitchcock. Tre attrici protagoniste nella infinita filmografia di Alfred Hitchcock, omonimo cognome del protagonista, autore del libro 1967, appena presentato da Silvia. Sono stato chiaro? Chiarissimo. A tra poco, strano, però ce l'ho fatta. A tra poco. Intanto questo brano sono i Kinks. Sono i Kinks, che, di cui lui parla, appunto, dice uno dei brani più belli usciti nel 67, uno di quei brani appunto che l'hanno convinto a fare musica, a farla simile a loro, diciamo. Dirty old river must you keep rolling. Arrivando un bel podio di risposte, sì. Però la proclamazione del vincitore avverrà dopo la pubblicità. A tra poco! A crowd of people turned away. to look. Having read the book. Robin Hitchcock sarebbe fiero di te. Per la musica che hai portato. Dunque, a corredo del suo libro. Io ho preso solo delle canzoni di cui lui parla nel suo libro e che saranno, questa è una anticipazione, nel disco che nel suo disco che uscirà a metà del mese, farà un disco con le cover di tutte le canzoni di cui parla nel suo libro. Bello. Capolavoro, Sgt. Pepper. Capolavoro assoluto. Ed End of Life è la canzone più bella che hanno fatto, forse. Sì, è strutturata in un modo, oltre che di una bellezza estetica, molto, molto grande. Allora, bando alle nostre chiacchiere, abbiamo un vincitore, ma partiamo da un podio che trova un terzo posto, che per quantità qui ne ha citate. Allora, Paola, grazie, come quantità, indubbiamente anche come qualità, però hai dato prova. Allora, June Tripp, Nova Pilbim, Carol Lombard, Ingrid Bergman, Doris Day, Kim Novak, hai capito? Quindi 3x3, 9, ne hai citate 3. Sì, ma io ne volevo solo 3 e volevo premiare quello che arrivava prima. Perché probabilmente quello che arrivava prima le sapeva, non le aveva lette. Ma non è detto, può darsi no, che anche Paola. No, guarda, Paola, ci ho provato. I primi 2 o 3 nomi sono di perfette sconosciute, non può che averli trovati su Google. Poi dopo, no. Mi sono messo a tacere in ultimo banco, quello degli asini. Allora, la prof sa bene gli stratagemmi, quindi attenzione. Allora, Luigi ha scritto Grace Kelly, Kim Novak, Tippi Hedren. Tippi Hedren, sì. Sì, è quella degli uccelli. Ed è medaglia d'argento, visto che siamo in tema anche di medagliere. Il vincitore è Francesco. Molto semplice, immediato, arriva primo, qua non ci sono dubbi, Silvia. Kim Novak, Grace Kelly, Janet Leigh. Perfetto, sì. Perfetto, e quindi il nostro vincitore è Francesco. Grazie Francesco, puoi passare questa sera con Mini Express e ti consegno io brevi mano il tuo premio, libro misterioso ma bellissimo di un autore americano importante, e quindi o lo ricevi questa sera al Fondo Comini dalle 18 alle 21.30 durante l'Open Deck, oppure lo lascio in libreria alla UBIC in via Irnerio 27, che collabora con il Breakfast Club. Fammi sapere, intanto puoi scriverlo dove preferisci ritirare il tuo premio. Complimenti. Sta sfumando anche il brano ultimo portato da Silvia. Sapete che ho portato un brano anch'io intanto? Il mio quiz è difficilotto, però ho trovato... grazie, va benissimo stasera al Comini. Grazie Francesco, ci troviamo quindi più tardi. Allora, di lui leggete tutto. Silvia giustamente sorride quando io parto in questo modo. Mi va in cinquina Pellegrino, lui è Lawrence Osborne. È un autore che amo alla follia. Pensate che io non ho mai letto niente. Beh, di Lawrence Osborne. Non ti ho mai regalato Cacciatori nel buio. Allora, io Cacciatori nel buio a tutte le persone appassionate di letteratura e lettura regalo Cacciatori nel buio di Lawrence Osborne. E infatti è l'unico libro che ho nel scaffale dedicato a lui nuovo, perché lo compro sempre nuovo. Lo compro sempre in tonso, lo compro sempre nuovo. Ma l'hai mai letto? Dicono poi, me lo regali, ma tu l'hai mai letto? No, è che ogni volta lo regalo e poi lo ricompro. Frettolosamente definito uno scrittore di viaggio, no, non ho una particolare passione per i diari di viaggio, no, assolutamente, però è un autore che si muove e come. Lui nasce a Londra nel 1958, lo pubblica Adelphi, questo è il suo ultimo lavoro uscito per la casa editrice che vi ho appena citato, ed è una particolarità perché la sua capacità eterogenea di mantenere certo un aspetto di spostamento, però di portarlo ogni volta in maniera diversa e con un talento letterario veramente molto forte, ne dà una visione così variegata e nello stesso tempo così, in questo caso, piacevole. Si ride nonostante il tema in questo libro, eh? È stato il mio libro che ho tenuto per l'estate, ma nello stesso tempo ne ho salvato anche, va da sé, una grande qualità. Lawrence Osborne, Santi e Bevitori, un viaggio alcolico in terre astemie. Allora, lui, insomma, adesso non posso certo criticarlo perché è una passione che ho anch'io, non dico che sia un beone, però insomma alza il gomito quando può, ama tutto ciò che può essere un bere bene e dice: siccome ogni tanto devo limitarmi in questo, dovrei un pochettino mettermi in regola, cosa faccio? Mi faccio le vacanze e un bel viaggio in posti dove l'alcol è assolutamente proibito. Quindi pensate che ovviamente, no, si predica bene ma si razzola malissimo, perché lui in questi posti farà il boia e l'impiccato per mezzo bicchiere di birra, non ne può più, ecco per dire, ma sarà veramente molto molto difficile. Tutto è trattato con una grandissima ironia, una grande capacità di denuncia anche per determinate condizioni sociali. E ha un altro aspetto questo libro, anche se ve lo sconsiglio, però appena terminato ho fatto la prova, cioè di aprire una pagina a caso e in ogni pagina ci sono passaggi e episodi di lui che in paesi, come potete ben intuire quali sono, alcolici, non se ne parla nemmeno, causa e conseguenze veramente gravi per chi ne dà una trasgressione. Ecco, è legato a tutto ciò, vi è qualcosa che invece porta a volte anche a un sorriso, anche a qualcosa, per così dire, di denuncia, di attenzione, di divergenze tra Occidente, Oriente e altre peculiarità territoriali, geografico-politiche, ma anche a qualcosa che dà una piacevole lettura, assolutamente molto molto scorrevole. Santi e Bevitori, un viaggio alcolico in terre astemie. Ormai la be qua è in mano a Hezbollah. Sono certo che un giorno taglieranno l'acqua ai vigneti. Beh, dico che potrebbero farlo. Non ce lo faranno, che di sicuro non possono rendere il Libano completamente astemio, ma sicuramente possono renderlo più astemio di oggi. Mentre bevo, mi assicura con scaltra disinvoltura e la testa leggermente inclinata da un lato, poi mi domanda un'altra volta se a mio parere il kefraya possa vendere bene in America. Per me è un vino creato precisamente a quello scopo. Bene, bene, dice. A fine pasto passiamo all'arak. Giumbelat è contento che ci piace lo Chateau Kefria e il suo arak, che comprendiamo come il suo paese sia costruito sulle sabbie mobili, tanto che lui un giorno può condannare gli astemi vestiti di nero di là dalle colline e un anno dopo appoggiarli allo stesso modo poi per sopravvivere. Furono i greci a definire le aspirazioni dionisiache, subconsce del bevitore moderno, che potremmo considerare un superstite pagano delle purghe del cristianesimo. Per ironia della sorte, l'Islam ci ha dato la distillazione, proprio come i greci ci hanno dato la fermentazione. Distillazione e fermentazione non potrebbero essere più diverse, tra l'altro, l'unica razionale e scientifica in origine, l'altra mistica e organica. Close to me. Don't let me be in love. sono? Chi sta portando questo brano Red Red Wine? Ma non è esattamente la domanda che voglio fare, perché il loro nome è una sigla burocratica per un preciso motivo. È una sigla burocratica. Intanto non so se li conoscete, potete portare al 333-180-9494 la risposta per avere di Lawrence Osborne santi e bevitori. Sono stati, per così dire, ritenuti i primi a interpretare una sorta di reggae bianco. C'è un pari merito, Dino e Paola. A questo punto però di libri magari ne saltano fuori due, però intanto uno c'è. Per essere sicuri di averlo, è Ubi 14, Ubi 40, come avete voi scritto, è una sigla che contraddistingueva che cosa dal punto di vista burocratico? Ubi 40, cos'è? Say we're young and we don't know, won't find out until we grow. Well, I don't know, baby, if that's true, 'cause you got me, baby, I got you. Baby, I got you, babe, I got you, babe. They say our love won't pay the rent before. La differenza tra fermentato e distillato, tante particolarità per bere bene, alla fine poi si ritrova, come avete visto, a passare dei confini dove è permesso qualcosina di più e conosce personaggi importanti che ci lavorano nonostante questi divieti e hanno paura perché il governo magari arriva, taglia l'acqua, brucia i raccolti e tutti questi episodi, chiamiamoli così, è qualcosa che trova nell'unità di intenti, nel limitarsi. Beh, che poi alla fine limitarsi. Lawrence Osborne beve bene. Paola, è tuo il libro. Comunque Dino avrà detto: io voglio il secondo posto. No, no, voglio il secondo posto. Grande decubertiniano e sportivissimo il nostro Dino. E Paola, tra l'altro, però è molto precisa e dice: è la sigla di un modulo per sussidio di disoccupazione. Esatto, è la sigla del modulo di sussidio di disoccupazione che ai tempi della Thatcher, appunto. Sicuramente la Thatcher l'ha annullato questo qui. Loro sono sempre stati comunque molto impegnati contro la strega, questo neanche un motivo in più per apprezzare, oltre sai che la qualità musicale. Sai che hanno musicale. Fatto anche un pezzo contro la Thatcher? Ah beh, non ho dubbi. Che si chiama Madame Medusa. Ecco. Paola è la nostra vincitrice. Allora, però, Dino, sapete che deve ritirare un libro, poi avremo modo di ritrovarci nelle prossime puntate. Paola, questa sera al Comini Express o preferisci in libreria La Ubic? Attendo la tua risposta. Nel dubbio, comunque, hai trovato modo di arricchire la tua biblioteca con Santi e Bevitori di Lawrence Osborne, edizioni Adelphi, un viaggio alcolico in terre astemie. Silvia, cosa succede giovedì? Poi pubblicità e ci salutiamo. Dunque, giovedì abbiamo un... alla, si chiama ancora Festa dell'Unità? Non lo so. Non lo so. Comunque, diciamo al Parco Nord per la Casa dei Pensieri, nella Sala Sofia... non mi ricordo il cognome, comunque non importa, abbiamo una serata molto importante dedicata ad Alberto Manzi per il centenario della sua nascita. Per chi non lo sapesse, perché ci può essere qualche giovane all'ascolto che non lo sa, Alberto Manzi è stato un grande pedagogista, un grande maestro ed è famoso soprattutto perché all'inizio degli anni 60 tenne per 8 anni consecutivi una trasmissione nell'allora neonata televisione intitolata Non è mai troppo tardi, in cui insegnava a leggere e a scrivere agli adulti analfabeti, che erano ancora tanti a quei grande tempi. Grande Manzi, sì. E Manzi poi ha fatto anche tante altre cose, ha scritto romanzi per ragazzi, molti romanzi, ha iniziato il suo lavoro lavorando nelle carceri, è stato per anni a insegnare in Sud America e ha sempre mantenuto però fino alla fine, anche quando lavorava in televisione eccetera, il suo incarico di insegnante di scuola elementare a Roma. Quindi è un personaggio molto importante. Appuntamento di cui parleremo a giovedì appunto alla Casa dei Pensieri alle 9, alle 21, con alcuni esperti del settore, cioè Patrizia D'Antonio e Roberto Farnè, che hanno scritto recentemente dei libri su questo personaggio, e Mirella D'Ascenzo, che è invece una pedagogista, insegnante, professoressa di pedagogia all'università. Modera Silvia Albertazzi, che ritroverete ovviamente al mercoledì nel Voltiamo Pagina. Diamo appuntamento alle ascoltatrici e agli ascoltatori anche domani con il Breakfast Club per una ricca rubrica in mostra, prima puntata 2024-2025. Bene Silvia, chi ben comincia, speriamo di avere ascoltatrici e ascoltatori fedeli anche per la stagione appena iniziata. Grazie per l'attenzione, a domani. Grazie Silvia e una buona giornata anche a te. Buona giornata a te, a tutte e a tutti.